È una TV concepita molto diversamente dalla tradizione. Noi non vogliamo duplicare o replicare le piattaforme televisive tradizionali esistenti, che tutti conoscono e che tutti usano. Noi siamo, come si dice, una web TV molto interattiva, personalizzata, in grado di gestire i contenuti che interessano alle singole persone individualmente e alle comunità di persone che hanno delle passioni, con difficoltà a trovare le cose belle che interessano a queste passioni sulle altre piattaforme televisive tradizionali. E per fare questo noi facilitiamo moltissimo la contribuzione da parte di tutti questi membri di comunità, delle social network, a suggerire i contenuti in modo che vengano presentati sulla piattaforma Bubblegum e possano essere goduti dalle singole persone e dalle comunità. È un modo di presentare, di caricare i contenuti che noi diciamo dal basso verso l'alto, al contrario delle piattaforme tradizionali che invece caricano e presentano i contenuti dall'alto verso il basso. Volendo usare anche una battuta, direi che è una specie di YouTube professionale combinata con una Google multimediale. Questa è una televisione che si guarda prevalentemente sul computer, è una TV che arriva via internet, dobbiamo scaricare un piccolo software per vederla. Qual è il modo al quale voi avete pensato, il modo di fruizione di questa TV, di Bubblegum? Innanzitutto si vede Bubblegum tramite un personal computer collegato alla rete internet, per questo che si chiama web TV, quindi servono un personal computer su cui si scarica passando attraverso il sito www.bubblegum.com il cosiddetto client, che è un piccolo software che una volta installato in totale sicurezza permette di entrare nel mondo dei contenuti della televisione via web di Bubblegum. È un'operazione molto semplice, molto veloce, a cui tutti quelli che usano il computer sono abituati. Per esempio, quando uno compra un computer, se deve scaricarsi il player flash, fa esattamente le stesse operazioni che deve fare quando scarica il client Bubblegum. Il nostro utente, anche se la parola utente non mi piace molto, la persona che guarda Bubblegum è innanzitutto un web surfer, cioè una persona che è abituata ad internet, che ama girare su internet, usare internet sia per interessi personali sia per lavoro, sta già usando internet. Quindi, come io dico, il nostro cliente più tipico è un web surfer che sta già usando il computer, ha già acceso il computer per altre ragioni, conosce l'esistenza di Bubblegum, ha delle passioni, ad un certo punto vuole interrompere l'attività che stava facendo sul computer, entra per un po' di minuti, 10, 15, 30 minuti, entra nel mondo Bubblegum. Guarda i video che appartengono alla sua passione, alla sua comunità, usa il motore di ricerca multimediale per trovare le cose che gli interessano, se le gode, dopodiché, dopo 10, 20, 30 minuti, ritorna a fare quello che faceva prima. Quindi non è, tra virgolette, la casalinga di Voghera che alla sera, mentre fa cena con tutta la famiglia, guarda il televisore e i contenuti televisivi tradizionali. No, inizialmente i nostri clienti o utenti più tipici sono appunto i web surfers. Che cosa si vede? Quali sono i contenuti a cui avete pensato, almeno in questa prima fase? Si vedono tante cose. Noi inizialmente proporremo alcune comunità ed inviteremo tutti a crearsi la propria comunità di interessi, se uno ce l'ha, ma se uno non ce l'ha, si creerà da solo il suo canale personalizzato, quello che noi chiamiamo lo smart channel, il canale intelligente, che si costruisce con il motore di ricerca. Supponiamo che io sia un appassionato di surf marino. Allora, tramite il motore di ricerca io scrivo surf e la piattaforma Bubblegum automaticamente, velocissimamente, mi presenta tanti clip, videoclip, che riguardano il mondo del surf. A questo punto io li prendo, li posso ordinare secondo le mie priorità e costruisco il mio canale. A questo punto, quando io entro in Bubblegum, automaticamente entro come priorità numero uno nel mio canale surf, che è la mia passione, il mio interesse. Posso decidere di guardarmelo io individualmente da solo, oppure tramite il web lo presento al mondo, a tutto il mondo, perché lo rendo visibile come canale web surf di Valerio Zingarelli o di Pippo. lo presento a tutti gli altri appassionati di surf del mondo che stanno guardando Bubblegum. E quindi vi è una condivisione di quello che a me piace e che suggerisco a tutti gli altri. Quindi è una ricerca tramite il motore multimediale ed una presentazione agli altri appassionati.